Cantieri di Carità e Giustizia. Proseguiamo il nostro viaggio all'interno dei Cantieri di Carità e Giustizia. Oggi sviluppiamo il capitolo nel quaderno numero 2 dedicato ai poveri e alla capacità di aiutarli. La povertà, come sappiamo, non è solo un problema economico. Per questo è stato chiesto ai referenti delle organizzazioni che hanno partecipato a questa mappatura qual è l'ulteriore principale problema osservato nelle persone che aiutano. Per più della metà di coloro che hanno risposto, il problema è la mancanza del lavoro. Per il 16% sono le precarie condizioni di lavoro o il basso salario, poi con percentuali più basse, 6-7%, la disgregazione familiare, la mancanza di reti familiari o di amicizia e il basso livello di istruzione. Si segnalano poi anche la casa non adeguata ad una vita dignitosa oppure situazioni di conflitto o tensione in famiglia. Ma per la stragrande maggioranza dei casi, appunto, è la mancanza di lavoro il problema. A fronte del problema povertà, il 67% delle organizzazioni giudica insufficiente la propria capacità di contrastarla. Il 20% delle organizzazioni dice di essere in grado di far fronte alle situazioni di emergenza, quindi solo il 20%, l'80% no. Il 12%, solo il 12% aggiungo io, ritiene la propria capacità adeguata rispetto ai bisogni del territorio. Tra le azioni che vorrebbero promuovere per migliorare l'azione di contrasto alla povertà, viene indicato in primo luogo il potenziamento delle reti, quello di cui si parlava la scorsa settimana, appunto le interconnessioni. Con queste espressioni che hanno usato appunto nella mappatura: essere più presenti nel territorio in collaborazione con altre associazioni, migliorare la collaborazione con le istituzioni, la rete di rapporti con altre entità pubbliche o private, collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, superando gli approcci di parte di breve respiro, maggior coinvolgimento dei servizi sociali del Comune di Padova. Ricordiamo che la mappatura e il progetto Cantieri di Carità e Giustizia riguarda esclusivamente il territorio urbano di Padova. Migliorare poi la collaborazione con le parrocchie vicine, le istituzioni del territorio, allacciare rapporti stretti e fruttiferi con istituzioni pubbliche e private. Insomma, detta in forme diverse, ma la sostanza è la stessa. Una seconda azione di miglioramento riguarda invece la dimensione del lavoro, in particolare realizzare attività che facilitino la ricerca del lavoro e l'inserimento lavorativo. E qui, tra le altre espressioni usate, poter aiutare maggiormente le persone a trovare lavoro, incrementare le opportunità di inserimento lavorativo o ancora ci sentiamo impotenti perché la prima necessità per le persone che incontriamo è il lavoro, supporto per ricerca del lavoro, potenziare la rete per favorire l'inserimento lavorativo. Dunque, temi e parole che si incrociano. Ulteriori modalità per essere più efficaci nell'aiutare le persone in difficoltà sono la sensibilizzazione e il potenziamento dell'azione comunitaria. E allora, coinvolgere e sensibilizzare la comunità alla povertà, sensibilizzare efficacemente la popolazione sul problema della povertà in genere, formare e sensibilizzare la comunità, coinvolgere maggiormente la comunità parrocchiale e locale. E poi non mancano riferimenti al potenziamento delle risorse economiche, umane e materiali. Più tempo, più persone, più aiuti. Ma c'è anche chi evidenzia la necessità di agire in modo diverso con le persone aiutate. Bisogna smettere di fare e dare, bisogna dare alle persone una nuova dignità e la stima verso se stesse, fare in modo che le persone trovino la forza di rinascere e diventare protagoniste della loro vita, sconfiggere le cause, far crescere le persone. Il nostro agire è solo confinato ai mezzi, al fare, ad agire, ma è totalmente scollegato da un obiettivo. O ancora, al di là di soddisfare le prime necessità, è importante promuovere rapporti di ascolto, di amicizia, dialogo, solidarietà per lasciare queste persone meno sole. Questi dunque alcuni spunti proprio presi dalle risposte che sono state date a questo questionario nell'ambito del progetto Cantieri di Carità e Giustizia. Quali sono le capacità di aiutare i poveri e magari anche di fare in modo che col loro stesso aiuto non siano più nella medesima condizione? Cantieri di Carità e Giustizia.